Capitolo 2. Al lago. A. La casa di Sandro. 1. Ascolta il dialogo. Sandro, hai una mappa della città? Sì, ce l'ho, ma è vecchia. Ha un buco qui al centro. Anche io ho una mappa nuova. Noi siamo in via Mazzini. Ecco, qui ho una piccola casa. Davvero? Dove? Qui, vicino al lago. È una casa molto bella. Ha anche un giardino. Il panorama da questo giardino è bellissimo. Per fortuna ho la macchina fotografica, ma non ho le batterie. La tabaccheria è dietro casa. Ha sicuramente le batterie. E la domenica mattina è aperta fino all'1. Bene. Che ore sono? È mezzogiorno. Hai tempo.